Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccomi qua, buongiorno, finalmente insieme. Che cosa state guardando mentre mi ascoltate? Volete provare a raccontarmelo? In 140 caratteri, twittiamo, twittate, fatemi sognare, basta un tweet. E intanto che guardate, perché non vi ho invitato a fare questo esercizio inutilmente, testate la capacità dei vostri occhi a osservare i dettagli, i contorni, i colori. Insomma, guardate, scrivete e chiamateci 800 24 00 24. Qui in studio con me il dottor Antonio Scialdone, responsabile dell'unità operativa oculistica Primal, fate bene fratelli di Milano. Buongiorno dottore. Buongiorno a lei. Gli esercizi, una cosa utilissima per gli occhi, volendo commentare questa cosa, guardate lontano, no televisori, una cosa rilassante, tranquilla, con qualche particolare, un occhio per volta, se avete degli occhiali metteteli su perché sennò sarà tutto sfocato, e poi guardate le differenze tra un occhio e un altro di nitidezza, di colori, se vi manca o avete l'impressione che qualcosa sia distorto, riportate le stesse cose per vicino. 800 24 00 24. E il vecchio diceva, guardando lontano, immagina questo coperto di rame, immagina i frutti, immagina i fiori, e pensa alle voci, e pensa ai colori, e in questa pianura guardate, raccogliete un dettaglio, scrivetelo in 140 caratteri, twittate il tweet più interessante che ci farà emozionare, ci porterà magari un profumo, una sensazione, riceverà a casa un libro che mi sta appassionando molto, si intitola 101 cose da sapere sul linguaggio segreto del corpo di Francesco Di Fanto, un libro molto interessante della Newton Compton Editori. Dottor Scialdone, abbiamo iniziato con questo esercizio di rilassamento. Guardare lontano aiuta sempre, anche utilizzato in modo un po' metaforico, e per i nostri occhi è un ottimo esercizio per rilassare, per fare una sorta di stretching. Un'altra indicazione che possiamo dare è ammiccate. Sì. Non solo per fare l'occhiolino. Perché no? Anche un po' di malizia ci vuole, o no? Sicuramente. Un po' di pepino, su. Allora, consiglierei un esercizio che molti forse conoscono, che è il palming. Mm. Quello soprattutto per chi fa tanto computer. Tante persone mi dicono che la sera quando escono dal lavoro e sono state concentrate con gli occhi a 40 centimetri, hanno gli occhi gonfi e hanno l'impressione di non riuscire a vedere neanche la targa della macchina, sì, che hanno davanti, e questo perché gli occhi sono rimasti contratti per molte ore. Quindi ogni tanto fermarsi un attimino, mettere i palmi delle mani sugli occhi chiusi senza premere e stare fermi così per qualche minuto. Sembra niente, ma rispetto a tenere soltanto l'occhio chiuso fa un'enorme differenza di rilassamento. Provare per credere. Anche per chi invece ha le lenti a contatto? No, guarda, no, va bene. Si può fare anche con le lenti a contatto? Certo, massimo rimangono appiccicate sulle... No, scherzo. No, no. Ascolta, leggi la riga di mezzo di quel cartello, per favore. D'accordo. F-P-C-E-L-T-A. Perfetto! Adesso con il destro, la riga successiva, per favore. Su, avanti. Non ci riesco. Credo di aver capito quello che hai. Il tuo problema è molto semplice. Vedi, l'occhio destro è più debole del sinistro e questo squilibrio provoca il mal di testa. Dottor Scialdone, oggi vogliamo testare un po' la nostra vista con delle azioni quotidiane. Noi sappiamo che nel tempo il nostro modo di vedere il mondo cambia, cambia, diventiamo sempre più saggi, a volte anche un po' più arrabbiati, ma cambia anche il modo in cui guardiamo gli oggetti, ci sembrano meno nitidi, dobbiamo avvicinare magari il testo per leggere. Allora, il suo compito oggi è quello di aiutarci a fare una sorta di autovalutazione della nostra vista e soprattutto insegnarci a riposarla in modo adeguato. Ce la fa? Beh, ci provo. Dai! ad esempio? Allora, il primo test che potrei suggerire, che proprio con la saggezza del tempo della vista, è quello di guardarsi da vicino il sudoku, le parole incrociate, un quaderno a quadretti, un occhio per volta, se portate gli occhiali per vicino, perché avete superato i 45-47 anni, fatelo con gli occhiali. Qualsiasi deformazione della griglia è un motivo per farsi vedere, sì, certamente. C'è una cosa però che nessuno di noi può fare, e cioè valutare, lo dico soprattutto per il rischio di glaucoma, sì, nessuno di noi può fare, e cioè testare il proprio campo visivo, cioè la larghezza dello spazio. Il cervello cerca di nascondere, per ottenere il risultato migliore, qualsiasi punto di mancanza. Sì. Ce ne accorgiamo soltanto quando le mancanze sono molto gravi, quindi quando avremmo dovuto andare dall'oculista molto prima. Quindi da questo punto di vista direi che non c'è un test se non andare a farsi vedere, come abbiamo più volte sottolineato, passati 45-47, una misurazione della vista e un racconto è importante. Assolutamente. Esatto. A parte questa considerazione, l'avere la vista un po' abbagliata, soprattutto di notte alla guida, con le luci, vedere degli arcobaleni, sono tutti motivi. Anche, sempre, mi raccomando, un occhio per volta, perché tutti e due gli occhi insieme, sì, non permettono, certo, di... Io ho visto ieri, sarò brevissimo, una signora che a 50 anni non si era accorta che vedeva con un occhio per lontano e uno per vicino. Dottore, ma io guardo bene. Guardi, vedo benissimo da lontano anche da vicino, leggo. Vero, verissimo. Peccato che fosse un occhio solo per volta. Per carità, non è un peccato, ma fare un minimo di test aiuta a capire. Quindi chiudete un occhio, osservate quello che avete di fronte, poi chiudete l'altro, guardate, se notate le differenze chiamateci, ma approfittate per il nostro numero verde se i vostri occhi sono particolarmente stanchi, se soffrite di mal di testa, se il mondo che vi circonda vi pare meno colorato, se di notte i fari vi abbagliano o vedete aloni intorno alle luci. Vero, verissimo, gli aloni intorno alle luci sono un segno di cataratta precoce, oppure talora, se la persona è molto giovane o molto più giovane, possono essere un problema di vista. 800 24 00 24 se volete intervenire, e 349 238 6666 e come sempre twittate. Ma dottor Scialdone, vogliamo soffermarci sulle luci, sull'illuminazione, e ho invitato per darci una mano Maurizio Melis. Ciao Maurizio. Ciao Nicoletta. E alias Mr. Kilowatt, come piace ma ricordarlo, e soprattutto conduttore di Smart City. Negli ultimi tempi noi abbiamo cambiato, no? Sì. Maurizio, le lampadine, alcune le lampadine abbiamo sono mandato andate in pensione, in pensione le lampadine sono arrivate altre proprio per risparmiare, eccetera. Ma ci sono molti studi, per questo vi ho abbinato, che si interrogano su la salute dei nostri occhi, si chiedono se questo tipo di illuminazione, oltre a risparmiare, aiuta anche la nostra vista. Numerosi studi, LED, non LED, fanno bene, la calore abbagliano, non abbagliano, vogliamo capirne di più, in modo che acquistiamo, no, i prodotti, anche delle lampadine che permettono di risparmiare, ma permettono anche di vederci bene, perché è importante vederci chiaro, avere la corretta illuminazione, e Maurizio tu ci dirai come, ma il dottor Scialdone ci darà anche delle indicazioni per avere dalla luce solo i vantaggi e non gli svantaggi, e questo è possibile. Maurizio, ci spieghi esattamente un pochino? Ma se, diciamo che queste nuove lampade a incandescenza, nuove, relativamente nuove, hanno diciamo delle emissioni di ultravioletti che notoriamente possono, sì, essere dannose, possono avere degli effetti dannosi per la vista, per la cataratta, ma anche per la pelle e così via. Ecco, naturalmente evitiamo di fare allarmismi eccessivi, non è che basta mettere una lampada ecco, a fluorescenza in casa per rovinarsi la vita. Assolutamente, ecco, insomma, no, non esageriamo. Tra l'altro questi problemi sono legati agli ultravioletti, sono in generale legati anche alla dominanza della luce blu. Quando una sorgente di luce contiene molta luce blu, questo diciamo rende intanto la luce molto fredda, fredda. Sì. La ad pelle, esempio, era la luce al neon. La vecchia luce al neon era una luce blu, ma tutta la prima generazione di lampade fluorescenti, e vorrei dire anche di LED, avevano questa forte dominante blu. Che fra l'altro è meno visivamente efficiente, perché l'occhio è più sensibile al verde giallo e la componente blu dà una sensibilità, diciamo, meno del 20% della capacità visiva, quindi avere una luce molto sul blu fa dare più sforzo visivo e sì, poi fa vedere di più le rughe, vero? Fa vedere di più le rughe, ma non a caso i lampioni che... negli incroci utilizzano della luce gialla, si ha una visione monocromatica con questa luce gialla, ma si percepiscono molto meglio i dettagli, eccetera eccetera. Ecco, queste luci fredde che danno una tonalità verdognola alla pelle, tra l'altro io le detesto personalmente, non ho nessuna lampada fluorescenza fredda a casa, ce le ho tutte calde. Ecco, appunto, basta comprare quelle calde e questi problemi sembra, ecco, che noi riusciamo diminuiscono. A capire quali assolutamente sono calde o fredde? Sì, intanto si vede benissimo quando le accendete a casa vostra che ci sono delle lampade che hanno una tonalità giallognola ed altre azzurrina, ma quando andate al supermercato è sufficiente che cerchiate sulla confezione, di solito è indicato warm white, che vuol dire bianco caldo, e vuol dire che ha una dominante, appunto, così abbiamo giallognola. Abbiamo le luci come Maurizio Melis, come Mr. Kilowatt, e questo già è già una buona scelta. Speriamo. Dottor Cialdone, quindi luci calde che sono un pochino più vicine a quella della luce naturale, anche se la luce naturale, la luce naturale è neutra, per definizione proprio. Poi bisogna vedere se è quella del tramonto, della mattina. E infatti qua volevo arrivare dopo, sì. Volevi arrivare qua, ma io chiedevo al dottor Cialdone, dato che oggi proviamo a testare un po' la nostra vista nelle situazioni quotidiane, un segnale che può così invitarci a consultare magari l'oculista, a farci fare un controllo, quando noi abbiamo bisogno, abbiamo la necessità di illuminare sempre di più, di avvicinarci ad esempio alla lampadina che abbiamo sul comodino per leggere, perché ci manca la luce anche se la zona è illuminata. Sì, è vero, oggi però dobbiamo dire che abbiamo molte più necessità di luce. Le case spesso degli anziani o le case di una volta erano molto meno illuminate di oggi, i mitici paralumi, quelli fatti di carta piuttosto che istoriati e artistici, in realtà fanno molta poca luce, certo. E quindi non rendono facile la vita. Oggi leggiamo molto di più di una volta, guardiamo gli smartphone, insomma facciamo tante cose, per cui io sono molto favorevole a illuminare molto di più la casa di una volta, e soprattutto meno luci al soffitto, prescindendo dall'estetica, per carità, sì? Molto più luci a spot diffuse in mezzo alla casa. Io nel mio studio ho uno spot da 50 watt di alogena, sì. E quando faccio leggere le persone per testare la vista mi dicono ma come mai adesso ci vedo e a casa mia non ci vedo, perché e dal medico di solito passano sempre tutti i disturbi, no? No, perché la differenza, buona, ma perché la differenza è la luce, certo. Però in ogni caso, Maurizio, tu mi volevi fare qualcosa sul tramonto, però tu non puoi twittare perché no, mi stanno già arrivando tanti. No, la mia era una roba un po' scientifica. Diciamo banalmente, di il cielo è blu, la luce, l'aria, l'atmosfera diffonde molto meglio la luce blu della luce rossa e gialla. Infatti le lampade con questa tonalità blu sono anche per questa ragione un po' abbaglianti, creano degli aloni più forti intorno. Il cielo non a caso è blu, ma noi tendiamo ad associare la presenza di luce blu alla fase diurna della nostra giornata, mentre la presenza di colorazioni rosse e giallognole e ci inducono inducono anche il metabolismo a sintonizzarsi su una modalità più serale, più insomma di percorso verso il sonno, no? Sì. Ecco, questo è un elemento. Poi invece per quanto riguarda le illuminazioni, io sono perfettamente d'accordo con Cialdone, bisogna illuminare, non è che risparmiare energia vuol dire accecarsi, illuminare in modo uniforme, l'uniformità è importante, i contrasti rendono più faticoso l'utilizzo della vista, e se possibile naturalmente luce naturale. Naturale. Per esempio mi aggancio a questa cosa, sì, scusate, mi viene in mente il televisore. Oggi usano grandi televisori piatti, sì. Che hanno molto contrasto, i contrasti sono elevatissimi, quindi aiuta la vista a riposare, avere una luce diffusa, leggera sul dietro. Retro del televisore, in modo tale che diminuisca il contrasto televisore nero. Ma quante ne sapete? Carlo da Padova, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. E niente, io volevo dire che io faccio l'autista, ma non sono di Padova, sono di Frosinone, Ceprano per la precisione. Sì, devo dire che si sente, però mi hanno detto che lei chiamava da Padova, io la metto lì. Vabbè, sono ciociaro in pratica. Allora io faccio l'autista e certe volte fissando una luce per pochi secondi mi si mette un alone sull'occhio e dopo che se n'è andato sto alone, che ci vuole pure tanto, mi si mette un grande mal di testa che non so spiegare in pratica. Sì. Dottor Sciandone, lei vorrebbe capire, ma è ciociaro, è caro, quindi me lo tratti bene. Perché? Ci mancherebbe altro. Lui ha una particolare, diciamo che l'osservazione della luce stimola una sua particolare sensibilità, per cui viene fuori una cefalea legata alla vista, cosiddetta cefalea oftalmica. Ci sono dei farmaci apposta se è una cosa che gli succede frequentemente, anche perché lui dice prima ha detto appena appena, poi ha detto per un po'. In realtà lui dovrebbe avere questa sintomatologia per 10-15 minuti, che è la fase in cui iniziano i disturbi e c'è uno spasmo vascolare retinico. Se lui fa il camionista, ovviamente già sa che quello è il momento in cui, se gli succede, sta guidando, deve fermarsi per 10 minuti, perché il campo visivo si appanna parzialmente. Allora, comunque, in questa chiacchierata LED, illuminazione, eccetera, Maurizio diceva illuminiamo bene, illuminiamo in modo uniforme, ci sono delle cose, però, insomma, la luce naturale. Tra l'altro c'è una ricerca che secondo me potrebbe molto interessare, Carmelo noi ce l'abbiamo, le mamme, perché è una ricerca che parla di luce, bambini e vista. Andiamo! Vista più acuta e meno problemi di miopia per i bambini che trascorrono più tempo all'aria aperta. A sostenere l'originale relazione è uno studio presentato dai ricercatori dell'Università di Cambridge, Regno Unito, nel corso del meeting annuale dell'American Academy of Ophthalmology, svoltosi a Orlando, in Florida, Stati Uniti. Justin Sherwin e colleghi hanno esaminato i dati raccolti da 8 studi che hanno visto coinvolti in tutto più di 10.000 tra bambini e adolescenti e hanno così scoperto che per ogni ora in più a settimana trascorsa all'aria aperta, il rischio di miopia per i bambini si riduce del 2% e che i ragazzini miopi passano in media 3,7 ore in meno a settimana all'aria aperta rispetto ai coetanei che non hanno difetti agli occhi. Secondo i ricercatori, diversi sono i fattori che potrebbero concorrere a determinare una vista da falco per i piccoli che amano giocare all'aperto. Tra questi, l'esposizione alla luce solare e l'abitudine a coprire con lo sguardo ampie distanze possono essere considerati fattori chiave, e anche il ridotto uso della messa a fuoco di oggetti da vicino, tipico di attività come leggere, studiare e giocare al computer, potrebbe influire, anche se quest'ultima connessione non è stata trovata in 2 degli 8 studi esaminati. Sherwin spiega però che nuovi studi saranno necessari per capire con più precisione quali siano i fattori più determinanti. Da Salute 24. Nel frattempo lasciamo i nostri bambini giocare all'aperto, non fanno avvantaggiarsi, non sarà sicuramente solo la vista, dottor Sciandone. Ma che cosa le dice questa ricerca? Può essere estesa anche agli adulti? Mi dice meno PlayStation e più calcio. Tra l'altro, questo aiuta in ogni modo. Certo, ma lei si parla della luce o della PlayStation per la sedentarietà? Per la sedentarietà, ma soprattutto in relazione agli specifici ritrovati di questa ricerca, che stare in casa inevitabilmente implica mettere a fuoco continuamente per vicino, nessuno guarda la parete di fronte. Quindi i ragazzini non fanno quell'esercizio che noi abbiamo consigliato in apertura. E per avere case più luminose, per far entrare meglio la luce del sole, la luce naturale prima dei mercati, i consigli di Maurizio Melis. Ma sì, insomma, andiamo così. Allargare le finestre ovviamente è una possibilità. Nelle vecchie case si tenevano finestre molto piccole perché per tenere fuori il freddo, no? Certo. Invece adesso ci sono anche delle misure standard da rispettare, esatto. Beh, come portare un po' più di illuminazione naturale dentro casa? La soluzione più semplice ed economica è utilizzare delle buone tende, cioè delle tende possibilmente bianche che facciano, che diffondano la luce, perché quando il sole entra in modo diretto in casa, è una specie di laser che crea forti contrasti nel punto in cui arriva, allora la tenda diffonde la luce. Poi ci sono soluzioni più raffinate, intanto le persiane, quelle con le lamelle orientabili, consentono di fare la stessa operazione, di diffondere la luce verso il soffitto. I sistemi più raffinati si chiamano light shelf, cioè delle specie di mensole che stanno sopra alla finestra, che diffondono la luce che arriva dal sole, la riflettono in profondità nell'ambiente, o addirittura ci sono degli oggetti che si chiamano tubi di luce, che sono come dei lucernai intelligenti che hanno un tubo riflettente che porta la luce nei luoghi più bui della casa, e lì si potrà avere in questo modo luce naturale. Queste sono cose geniali, però anche la tenda non è solo da lavare e da stirare, serve. Molto importante. Grazie a Maurizio Melis per essere stato con noi. Abbiamo Federico da Udine, ma Federico? Buongiorno. Federico, sta con me perché io devo dare la linea ai mercati e al meteo. Ci sentiamo tra poco. Grazie a Maurizio Melis, lo sentite ancora oggi. Eh sì, questa sera vi tocca alle 9. Parliamo di fusione fredda, tra l'altro, dai, un temone. Ci toccherà piacevolmente. Temone. Essere e benessere. Lei ha la mutua? No, sono scapolo. Lo sa che qui è questore di Cornea? Senta, cominciamo a parlare bene. Le ho detto che sono scapolo, non parliamo di cornea. Per me le cornea in chiamata. No, io non ho cornea per niente. Mi dico, lei è presbite miope o astigmatico? Io sono palermitano. Bene, quindi miope? Di mamma. Ci siamo. Papà era etiopico. A me fanno sempre ridere, Franco e Ciccia in Grazia. Dottor Cialdone, vediamoci chiaro. Intanto dico ai nostri ascoltatori, twittate 140 caratteri per raccontare quello che sta catturando la vostra attenzione. Per uno di voi un libro di Francesco Di Fant, 101 cose da sapere sul linguaggio segreto del corpo e anche il modo in cui, no, guardiamo, osserviamo, indugiamo, dottor Cialdone? Certo. Lei diceva ammiccare, no, non ammichiamo, io le dicevo, certo. Ma sì, ogni tanto un po' di ammicco ci vuole. Certo, che non sono disturbi oculari, bensì servono anche per evitare che l'occhio diventi, certo. No, perché le lacrime aiutano a pulire l'occhio. Poi a Milano non si l'occhio. Dice fa balla luce. Si dice così. Allora, Federico, buongiorno, da Udine ci chiamava, gli avevamo dato appuntamento dopo i mercati e il meteo ed eccoci qua. Buongiorno Nicoletta e buongiorno ai suoi ospiti. Buongiorno a lei. Ecco, una piccola premessa, sto ristrutturando casa e quindi dopo aver controsoffittato tutto l'appartamento, eccetera, la scelta per quanto riguarda l'illuminazione è caduta inevitabilmente su dei faretti a incasso. Ora, visto che solo nella zona giorno ne abbiamo ben 15, la nostra così scelta cadeva su dei faretti a LED. Ok, e la mia domanda era questa: come fare a riconoscere un prodotto di qualità rispetto da uno che di qualità non è? Perché è chiaro che quando c'è la novità, chiamiamola certo, così, sul mercato, c'è anche l'invasione di prodotti certo, di bassa certo qualità a un prezzo magari aggressivo, e sarebbe interessante capire come fare a lasciare sullo scaffale i prodotti che questo, non meritano. Qua poi ci vorrebbe ancora Mr. Kilowatt a cui può scrivere, ma il dottor Cialdone, perché lui è un oculista, insomma, la luce lui la usa per far star bene gli occhi. Certo. No, non è che voglio toglierli però magari no, un'indicazione. No, certo, qualche indicazione diciamo dal punto di vista qualitativo si può dare, che è quella di cercare innanzitutto un prodotto di qualità, quello che sulla scatola dà dal punto di vista dell'illuminometrico, della illuminotecnica, dà l'emissione non solo in termini di watt ma anche in termini di spettro luminoso e quindi l'onda prevalente, la lunghezza d'onda prevalente. Io sceglierei quelle che hanno una lunghezza d'onda prevalente intorno ai 3200-3600 kilowatt, che sono Kelvin, il verde giallo è sempre la lunghezza d'onda su cui l'occhio ha la maggiore sensibilità e quella che produce uno spettro più naturale. Tendenzialmente i prodotti di cattiva qualità non danno nessuna indicazione sulla scatola. Poi per il resto direi che lei vorrebbe una cosa che tutti vorremmo, cioè, come si fa a distinguere un'ottima marmellata da una marmellata senza offesa cinese, piuttosto che è difficilissimo. Le scatole, anzi i produttori peggiori le fanno più appealing di quelli però migliori. C'è un'etichetta l'etichetta che tra poco impareremo a leggere. Esattamente. Federico, se vuole scriva anche al nostro Maurizio Melis, al nostro Mr. Kilowatt, Giuseppe da Milano, Fosco dalla provincia di Pistoia e Filippo da Pavia. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno signora Nicoletta, buongiorno al suo ospite. Io avrei una domanda da fare al dottore. Allora, io ci porto degli occhiali progressivi. Allora, dall'occhio destro vedo, diciamo così, un po' annebbiato, e quando sono in autostrada, se guardo la macchina davanti solo con l'occhio destro, il paraurti lo vedo ondulato e anche la riga bianca la vedo che fa zig zag, non è che va dritta. Volevo qualche informazione. Giuseppe, ma lei guida molto? Guida tante ore? No, diciamo che non guido tante ore. Normale, farò i 10.000 km all'anno, 12.000. Ma quanto tempo è che è così? Ma questo qui sarà un annetto. Un po' di tempo addietro mi trovavo come una macchiolina davanti all'occhio. Ho fatto delle visite, mi hanno detto che era una goccia di acqua che doveva andare via da sola, mi è sparita quella macchiolina. Sono delle cose, sì, ho capito, perché ci sono delle, tante volte ci dicono delle cose, la gocciolina d'acqua che poi va via da sola, una cosa può pensare, però una cosa è importante dalla telefonata di Giuseppe, e cioè questi contorni, queste linee che invece che vederle dritte come sono nella realtà assumono degli andamenti particolari. Allora, questo è un segnale importante. E soprattutto colgo l'occasione appunto per lanciare un segnale. Se l'immagine distorta o offuscata è temporanea e quindi giro l'occhio, lo chiudo, me lo giro e mi sparisce, è una cosa di minore rilevanza, diciamo così, patologica per la salute rispetto al fatto che se io mi sfrego, giro l'occhio eccetera e mi rimane la stessa immagine, è molto più probabile che sia un problema collegato, permanente, collegato alla retina, e quindi è meglio che, come l'ascoltatore ha già fatto, mi faccia vedere, perché potrebbe essere, diciamo così, troppo tardi perdere tempo per la retina. Ecco, assolutamente. Se le righe sono dritte, le vediamo ondulate o storte, come il dottor Cialdone diceva anche banalmente quando facciamo il sudoku, le parole crociate, eccetera. Ecco, se ci sono delle quadrettature, così dobbiamo vederle. Senza fare terrorismo, noi ogni tanto, come facciamo il tagliando della macchina, facciamoci controllare la vista, insomma. 800 24 00 24, abbiamo Fosco dalla provincia di Pistoia. Fosco, oila, buongiorno. Lei parla con me o parla con un altro? Fosco, buongiorno. Non volevamo essere indiscreti, ma sto parlando con un'altra persona. Salve. Contemporaneamente Cialdoni Fosco. Veramente? Come professore. Avete lo stesso, siete quasi parenti. Allora, allora Fosco, no. Lei come ci vede? Cosa sta facendo oltre a chiacchierare con un altro? No, io sono in un parcheggio, sto passeggiando adesso. Ascolti, no, il mio problema è uno soltanto. Io lavoro con l'assicuratore, lavoro in un ufficio. E mi capita, ho 65 anni, e mi capita che devo cambiare gli occhiali molto spesso perché la mia miopia mano a mano scomparisce, diciamo. Devo per leggere devo toglierli, per lavorare al computer devo toglierli, ma è una cosa normale, ringiovanisco oppure è un brutto segno? No, Fosco, secondo me lei ringiovanisce. Ci Fosco, dica il segreto. Ma è un nome bellissimo, e poi lui ci ha detto Fosco, fo l'assicuratore, poi anche il suo cognome. Ringiovaniamo, ma la miopia quando si muove è normale? Ma, è un buon segno? Diciamo che è abbastanza frequente che arrivati alla mezza età i miopi possano perdere un po' di tono muscolare interno all'occhio, quindi la miopia si riduce leggermente, intendo la mezza diottria, tre quarti di diottria. Se il fenomeno è progressivo e va avanti per un po', intanto cambia gli occhiali, mi fa sospettare che invece il problema sia intraoculare e quindi l'inizio di una cataratta. Adesso, diceva Fosco, comincio a leggere senza occhiali. Miopia indotta, si chiama miopia d'indice ed è un segnale di inizio di offuscamento della vista e inizio. Quindi quando i miopi si tolgono gli occhiali è tempo di cataratta. Non solo quello, ma anche questo quando... per voi oculisti va sempre bene. Da un certo punto di vista. Filippo, buongiorno da Pavia. Buongiorno Filippo, buongiorno. Dov'è? Allora, volevo dire semplicemente una cosa, che io concentrandomi a guardare spesso soprattutto il cielo, che come sfondo è più uniforme. Sì, lei è un poeta? No. È innamorato? Sì. Vedi, bisogna sempre guardare in alto, bravo Filippo. Allora, lei guarda il cielo e questo già la rende particolarmente simpatico. E cosa succede? Vedo fluttuare nell'occhio delle strane forme, tipo dei batteri, delle cose lunghe che si muovono a seconda di come muovo l'occhio. E volevo capire questa cosa, sì, qui, questa cosa strana. Filippo, alcuni li chiama batteri, altri vermicelli, altre mosche, zanzarine. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, sulle autostrade. Tutte queste specie di esserini viventi dalle mille forme sono fibre vitreali. Essere e benessere. Guardando il cielo vedo dei piccoli esserini che nuotano, vermicelli, bastoncini, le mosche volanti. Dottor Cialdone, ma alla fine ce ne preoccupiamo, facciamo finta di niente? No. Si possono eliminare perché sono molto fastidiosi avere sempre questa cosa qua che ti balla davanti all'occhio? No, sono un fastidio che tutti ci dobbiamo mettere in conto di avere più o meno. Il vitreo, che è un gel intraoculare, è trasparente alla nascita, ma poi piano piano degenera, si altera. E quindi ce lo teniamo. E ce li teniamo. Un altro esercizio che possiamo fare per misurare un po' la nostra vista è capire se riusciamo a leggere i caratteri minuti, ad esempio le etichette. Gassman legge l'etichetta di un capo delicato. Sida 30%, cotone 40%, acrilico 30%. Lavare a 40 gradi. Non strizzare. Non stirare. Capo delicato. Fare asciugare lontano. Da fonti di calore. Questa sì che è un'interpretazione. Oh no, adesso io non dovrei parlare, direi vi saluto, vi lascio dopo. Comunque anche noi buttiamo l'occhio, è proprio il caso di dirlo, sulle etichette, però guardiamo le etichette alimentari. Sappiamo che entro il 13 dicembre 2014 diventerà obbligatorio l'adeguamento al regolamento dell'Unione Europea e così avremo etichette con maggiore chiarezza, soprattutto con più informazioni. Ma voi le etichette riuscite a leggerle e soprattutto... che dati leggete? C'è un sondaggio che voglio farvi sentire, è stato fatto dall'osservatorio ADI Nestlé, che ha realizzato questo curioso sondaggio perché fotografa un po' le abitudini di noi italiani. Andiamo. I dati della ricerca fatta su un campione di 1000 individui intervistati telefonicamente e 5500 persone che hanno compilato il questionario online indicano che sono le donne ad essere le più attente alla lettura dell'etichetta perché controllano il valore energetico e la tabella nutrizionale, a dimostrazione del fatto che, mediamente, hanno maggiore cura di sé nelle scelte alimentari. Ma a cosa si presta più attenzione? La data di scadenza, con l'88%, batte tutti, A seguire la lista degli ingredienti, 73% della popolazione, e infine il 68% degli intervistati controlla che non ci siano coloranti. Ci sono poi alcuni prodotti la cui etichetta viene letta con maggiore attenzione, ad esempio i surgelati, gli yogurt, i dolci, il cibo pronto, carni e latte. I dati dell'osservatorio Adi Nestlé, ma in linea con noi abbiamo la dottoressa Michela Barrichella, responsabile dietetica e nutrizione clinica agli istituti clinici di perfezionamento di Milano. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a lei. L'etichetta può diventare un po' una sorta di bussola per orientare, per aiutarci anche a fare delle scelte intelligenti e salutari? Sì, direi assolutamente sì, perché tutte le informazioni nutrizionali che sono riportate sulle etichette sono sicuramente utili. Sono utili per scegliere gli alimenti e per impostare la nostra giornata alimentare. Dottoressa Barrichella, lei le vede bene le etichette? Ma direi purtroppo sono spesso molto piccole, quindi c'è veramente difficoltà. Devo dire che dipende molto dalla tipologia degli alimenti. Sicuramente leggerle è importante, ma saperle anche interpretare, perché spesso si leggono però non si ha un'idea precisa delle informazioni che ci possono dare. Infatti ci sono dei dati che vengono letti con più attenzione, ad esempio la data di scadenza e poi a seguire, come diceva il sondaggio, la lista degli ingredienti. Ma io vorrei che lei desse a me, ai miei ascoltatori, anche al dottor Scialdone, che ogni tanto fa la spesa pure lui, un modo intelligente di leggere e soprattutto utilizzare i dati che ci sono nelle etichette. Alcune ad esempio non li consideriamo e invece sono molto importanti. Ad esempio una sigla che è GDA, che cosa significa e perché? Come possiamo utilizzarla a nostro vantaggio? Allora, sì, direi che è molto utile. GDA è la quantità giornaliera indicata di energia e di nutrienti per seguire una dieta equilibrata, quindi sono delle informazioni di quello che si dovrebbe introdurre durante la giornata, quindi è un'informazione che riguarda sia le chilocalorie, quindi per esempio di un certo alimento noi sull'etichetta troviamo in modo semplice la quantità, quindi 100 grammi ha un fabbisogno, ha un valore calorico, ci dà il valore delle chilocalorie e ci dice che quello soddisfa una certa percentuale. Quindi un esempio molto pratico, per esempio se c'è scritto che soddisfa il 50% dell'energia totale, noi sappiamo che mangiando 100 grammi di quel prodotto soddisfiamo metà di quello che ci serve per tutta la giornata. Questo è un calcolo che viene fatto, ma leggendo la percentuale è molto semplice, così se una persona vede che introduce tante chilocalorie con quell'alimento, sa che durante la giornata dovrà quindi riequilibrare e mangiare cose che magari hanno un valore calorico più basso. Ma dottoressa, posso permettermi, oltre alla quantità ci sono le qualità, per cui se uno dice grassi saturi, vede com'è astuto questo nostro oculista, fa la spesa anche lui, guarda. In effetti oltre al valore calorico vengono indicati i macronutrienti, questo è importante perché la nostra alimentazione deve essere varia e una percentuale, la maggior parte di percentuale dell'energia deve essere portata dai carboidrati, quindi il 60% deve arrivare dai carboidrati. Dai lipidi, come diceva lei, ne deve arrivare un'altra parte, circa il 30%, però è importante sapere quali lipidi. In effetti sulle etichette c'è sempre l'indicazione di quali sono quelli saturi. Saturi significa che arrivano tendenzialmente dagli animali e sono quelli che tendenzialmente sono peggiori, quindi dobbiamo assolutamente introdurli ma limitandoli. Quindi se noi leggiamo l'etichetta siamo a cavallo, ma leggiamola con o senza occhiali. Grazie alla dottoressa Barrichella, grazie al dottor Scialdone. Abbiamo un tweet di Stefano che abbiamo scelto per far ricevere a casa 101 cose, proprio un tweet, 10 secondi, Stefano. No, non l'abbiamo più. Bene, è caduto. A domani. Grazie anche a Stefano che ci ha scritto uno splendido tweet. Essere e benessere.